La Chiesa cattolica ha un'articolazione classica e chiara: il popolo dei credenti, i sacerdoti, i vescovi. Su tutti troneggia il Papa, la massima autorità. Questa gerarchia, questo termine etimologicamente significa dominio sacro, è indicata già dal Vangelo o la sua rigidità organizzativa è motivata piuttosto dalle necessità d'efficienza e forza d'urto? Intanto contesto la convinzione diffusa secondo cui gerarchia significhi dominio sacro. È mia convinzione che questo termine voglia dire in realtà origine sacra, che in questo caso alluderebbe all'origine della Chiesa dalla volontà del Signore, da un sacramento, non da decisioni umane. Se vediamo le cose in questi termini, maturiamo già tutta un'altra idea del sacerdozio. Non stiamo più parlando di una classe dominante che impone nella Chiesa una rigida disciplina. Il sacerdozio è, al contrario, ciò che vincola la Chiesa al Signore. È la capacità della Chiesa di oltrepassare se stessa, e non deriva da essa, da assemblee, decisioni, erudizione o forza organizzativa, ma è una grazia concessa da Cristo. In questo senso il sacerdozio non può disporre di se stesso. Se quindi vengono meno le vocazioni sacerdotali, dobbiamo implorare il Signore, ma non possiamo imporle coercitivamente sulla base di un'autorità terrena. La Chiesa viene spesso definita come popolo di Dio in cammino e i credenti come gregge di Dio. Taluni li chiamano anche dispregiativamente gregge di pecore, cioè una massa senza diritti che deve solo credere e obbedire. Eviterei di contrapporre i concetti di popolo di Dio e di gregge. La religione ebraica è cresciuta in una cultura pastorale in cui la costellazione simbolica legata all'attività dei pastori ha sempre conservato un significato particolare e da lì si è trasmessa anche al Nuovo Testamento. Partire quindi da un'accezione negativa della definizione di pecora è fuorviante. Dovremmo invece focalizzare il rapporto di fiducia tra il pastore e il suo gregge, in cui si esprime lo stesso concetto presente nella definizione di popolo di Dio, un popolo in cammino attraverso la storia. In Italia, dopo l'avvenuta riconciliazione tra la Chiesa e lo Stato laico, Pio XI ha ammonito i laici cattolici a elaborare un nuovo modo di vivere la condizione laicale, continuando a essere cristiani nel mondo, e ha quindi fondato l'apostolato dei laici. Da quanto posso vedere, l'accentuazione anticlericale, la rivendicazione dei diritti dei laici all'interno della Chiesa ha avuto inizio solo dopo il Concilio Vaticano II. Quest'idea si è nel frattempo trasformata in un'autentica parola d'ordine antiromana, in un dogma della borghesia liberale. A mio avviso questa tendenza poggia su una base sbagliata. Parte dal presupposto che la Chiesa debba essere governata, che esistano due ceti e che entrambi abbiano diritto a una rappresentanza e che debbano insieme concordare che cos'è la Chiesa. Chi si iscrive in questa corrente ritiene che i laici debbano dare vita a una loro rappresentanza, che poi confluirebbe nel Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi, e dovrebbero in qualche misura esprimersi a favore di una Chiesa laica. Dall'altra parte, il clero dovrebbe costituire dei propri organi, il che è evidentemente una sciocchezza. Che ci sta a fare allora il clero? Taluni pensano che i dogmi di fede, la natura e la conformazione della Chiesa debbano essere il frutto di una riflessione e di una elaborazione collettiva. Bisognerebbe quindi spodestare il clero e assicurare ai laici il diritto a dire la loro, a partecipare delle decisioni. Molti lo pensano. Un clero che abbia la giusta consapevolezza di se stesso non prescrive che cosa sia la Chiesa, ma obbedisce a Dio, il cui garante è il Papa. Questi, pertanto, ha l'obbligo di fare in modo che gli uomini non si plasmino una Chiesa funzionale ai loro desideri, perché la Chiesa deve rimanere nelle mani del Signore. A questo serve il sacramento dell'ordine, con la sottolineatura della sua origine non umana. e non è nemmeno un disonore alla condizione laicale, ma la forma usuale dell'identità cristiana, la forma usuale in cui il Vangelo viene vissuto nel mondo e portato nella quotidianità. Comprendere e riplasmare il mondo sulla base del cristianesimo è il vero apostolato dei laici. Una condizione particolare è quella di coloro che nella Chiesa si sono imposti di imitare Cristo nel modo più radicale possibile, monaci e suore. Qual è il compito degli ordini nella Chiesa del futuro? Devono esserci diversi gradi di radicalità nel porsi al seguito di Cristo, poiché non a tutti è richiesto lo stesso. Ci sono anche essenziali e insostituibili forme di imitazione di Cristo che richiedono di vivere la fede a partire dal proprio impegno professionale, nella politica, nelle scienze, come artigiani e nei lavori più umili. Ma c'è anche bisogno di chi dedica tutta la propria vita alla fede, di chi contribuisce a formare una riserva interiore di fede da mettere a disposizione dell'annuncio della rivitalizzazione della fede. Credo che una struttura aperta a molteplici forme di continuazione dell'operato di Cristo sia di fondamentale importanza per il futuro della Chiesa. Ci devono sempre essere luoghi in cui ritirarsi, in cui permeare della preghiera l'intera giornata, in cui scandire con la preghiera il ritmo della giornata. Sono questi le riserve della fede, dei luoghi in cui la fede viene vissuta diversamente e da cui si irradia. Lo stiamo sperimentando proprio con questo nostro colloquio nell'antico monastero benedettino di Monte Cassino. O pensiamo agli ordini femminili contemplativi, come le carmelitane, le clarisse. Anche questi sono oasi a cui molti guardano con nostalgia e da cui traggono aiuto per rinnovarsi e fruttificare.